Capitolo 6. Il racconto di Marie. Sono Marie, figlia di Kuan Yin. Sorella Gabriela, tu hai ricevuto l'ambito premio della corte svedese per il tuo impegno verso le figlie e i figli della dea. Io ne ho ricevuti due, ma nonostante ciò ho dovuto faticare perché il mondo degli uomini mi consentisse di adempiere la mia missione. E come te, anche io ho dovuto affrontare la perdita prematura di colui che il mio cuore amava. Sembra anche a me che la porta del dolore sia l'unica attraverso la quale le donne possano transitare per essere creatrici riconosciute e indipendenti nel mondo degli uomini. Partorirai con dolore, fu scritto, e questa condanna ancora ci condiziona e ancora ci programma la sofferenza nel dare a luce creature non solo di carne, ma anche di idee. All'inizio fui ossessionata dalla Pekblenda. La voce interiore mi diceva di indagare nella Pekblenda perché lì avrei trovato la risposta alla febbre che mi consumava. Cercare la strada verso la natura sottile dell'esistenza, verso la luce pura e senza massa, verso l'essere prima della forma. Così, in modo totalmente empirico e senza un metodo cui attenermi, cominciai a studiarla insieme a Pierre, nel magazzino di una scuola municipale. Avevo tanta curiosità e amore per la conoscenza. Per me la chimica e la fisica erano, all'epoca in cui vissi quella mia incarnazione, le uniche forme di sciamanismo e di alchimia percorribili e accettate in Europa. In Polonia, dove ero nata, alle donne non erano permessi gli studi superiori. Ma io lo feci di nascosto, grazie all'Università Volante, una accademia clandestina patriottica dove scienziati, filosofi e storici polacchi, rischiando il carcere, insegnavano a noi ragazze che volevamo studiare alla maniera dei positivisti. Mi sentivo laica rispetto alle religioni degli uomini, non potevo credere a una forza creatrice maschile, trascendente. Per me la creazione si faceva da sé, era androgine. E abbracciava le due parti, l'attrice e l'azione compiuta. Sentivo fortemente dentro di me la presenza di una guida istintiva che mi legava a ogni atomo della creazione, secondo un disegno ordinato, intelligente, compiuto. Posso chiamarla Dea Madre? Sì, posso, poiché non sto esprimendo un concetto mistico o religioso, bensì un concetto fisico e biologico. Sciamana? Forse. Alchimista? Certamente. Fu il mio istinto sciamanico a farmi ricercare mondi invisibili al di là della materia e a spingermi sui campi di battaglia per salvare vite umane con la mia invenzione della macchina radiologica. Tenerla su uno scaffale, teoria senza utilizzo, avrebbe significato per me l'aver buttato via questo dono e l'aver vinto un premio sterile. Trasmisi questo sentire alle mie figlie, che seguirono le mie orme e donarono la loro vita alla ricerca e al servizio. I miei genitori erano insegnanti e l'amore per la conoscenza, per le lettere e le scienze, in casa nostra si metteva in tavola insieme ai cavoli e alle patate. Fisica e matematica erano materie di insegnamento di mio padre. La nostra povera patria era da un secolo smembrata tra la Prussia, l'Austria e la Russia degli zar. Fin da bambina percepii il peso di quella prigione dell'anima che è una terra occupata. A scuola ci veniva imposta la lingua russa e la nostra cultura nativa polacca era proibita. Nemmeno tra noi in casa avevamo il permesso di parlare la nostra lingua madre. Chiunque avrebbe potuto tradirci e denunciarci. Finanche la musica polacca era proibita. Invece, furono i miei stessi genitori a inculcarmi l'amore per le nostre radici e non appena mi fu possibile, divenni io stessa una militante, patriota. Dedicai la mia vita a cercare di liberare l'umanità dall'oppressione provocata da ignoranza e paura. Feci del mio meglio, ma ora so che il passaggio nella dimensione duale di gioia-dolore è una scelta di ogni creatura umana e che nella terza dimensione, dove l'umanità si incarna e poi si disincarna, non vi è nulla da migliorare. Così è concepita dalla Grande Madre e così deve rimanere. Siamo noi, a dovercene andare quando abbiamo terminato l'esperienza. Militai per portare la conoscenza a tutte e tutti coloro che la desideravano, fin negli strati più umili della società. Fui intransigente, inflessibile, soprattutto con me stessa. La mia vita era dedicata alla ricerca e al servizio. Non mi concessi frivolezze né perdite di tempo. In realtà non ero attratta da nient'altro che il mio laboratorio. Come voi, sorelle, non brevettai mai il risultato delle mie ricerche. Lo donai liberamente al mondo. Mai mi sfiorò l'idea di poterne ricavare un tornaconto economico. I doni della madre vanno condivisi con le altre sue figlie e figli. Fin da quando ero bambina, mia sorella Bronia fu per me sostegno, amore, compassione e consolazione. Poiché nostra madre morì giovane, fu Bronia a insegnarmi la fiducia nelle donne, che in tutta la mia vita furono fondamentali. In realtà, non mi aspettai mai nulla dagli uomini. Preferivo sentirmi autonoma. Dopo il liceo, che terminai a 15 anni con una medaglia, fui costretta ad abbandonare gli studi e, per aiutare i miei, divenni istitutrice per una ricca famiglia nella campagna polacca nord-occidentale. Lì, le giornate monotone, tristi e senza stimoli, fatte di pioggia, vento e inondazioni, mi saturarono di una desolata demotivazione. Per 3 anni vissi in quell'inferno, scrivendo a Bronia lettere piene del mio malessere. Poi fui mandata via, a causa del rapporto di tenera amicizia nato tra me e il maggiore dei loro figli. Questa fu la svolta verso il mio destino. Potei tornare a Varsavia, dove, grazie a un cugino assistente di Mendeleev, penetrai per la prima volta in un laboratorio che faceva parte della clandestina Università Volante. Avevo 18 anni. Fu una folgorazione. Mi sentivo come in un tempio alla presenza della madre stessa. Le gambe non mi reggevano, il cuore gridava che quella era la mia casa. In quel laboratorio appresi la pazienza e compresi che i progressi scientifici non sono né facili né scontati. Vi erano volte in cui una distrazione o una minima imperfezione annullavano in un istante interi giorni di lavoro. Bronia mi permise di fuggire dalla mia terra occupata e senza nulla da offrirmi per andare incontro al mio destino. Mia sorella si era trasferita a Parigi per studiare medicina e lì si era sposata. Mi invitò a raggiungerla ed io lo feci poiché sentivo una chiamata fortissima a fare qualcosa di più che l'istitutrice di marmocchi delle ricche famiglie polacche. Viaggiai fino a Parigi e lì, a 24 anni, mi iscrissi alla Sorbona, immergendomi completamente nell'atmosfera intellettuale della Francia repubblicana. Restai poco in casa di Bronia. Presi alloggio quasi subito nel quartiere degli studenti per essere più vicina all'università. Nonostante la scarsità dei miei mezzi di sussistenza, tutto ciò che avevo sognato, la conoscenza e la libertà, era ora a portata delle mie mani, o così mi sembrava. Quando mi iscrissi alla Sorbona, le ragazze erano solo 3 ogni 100 matricole, e di certo non avevano vita facile. Ma io sapevo di essere venuta in quel corpo per uno scopo e con una missione: usare la scienza positivista per dimostrare l'esistenza dei mondi invisibili, ed ero decisa ad attendere che mi si manifestasse la possibilità di onorarla a qualunque costo. Dopo la seconda laurea in matematica e in fisica, fui incaricata di studiare le proprietà magnetiche dei metalli dall'Associazione per l'incoraggiamento dell'industria nazionale. Mi fu consigliato di contattare un fisico di 35 anni che se ne stava occupando. Era Pierre Curie. Fu immediata tra noi l'amicizia e la complicità nella ricerca, la base del nostro sodalizio che si tradusse presto in matrimonio, ma che più che un amore coniugale fu, inizialmente, un leale e reciproco sostegno tra ricercatori. Ero sola, senza casa né famiglia, e trovai lui. Fummo realmente compagni di vita e di azione. Fu grazie a lui, come sua assistente, che mi fu consentito accedere ai laboratori e fare ciò che alle donne sole non era permesso nemmeno in Francia, essere scienziate. Eravamo inseparabili e quando, per un periodo, tornai a Varsavia per partecipare all'emancipazione della mia Polonia, Pierre mi scrisse che il suo desiderio era passare la vita affiancati nel nostro sogno patriottico, umanitario e scientifico. La mia ricerca di un laboratorio dove approfondire le ricerche sui raggi di Becquerel mi aveva fatto conoscere Pierre. Lui poteva darmi il laboratorio che mi serviva e si era appassionato alla mia ricerca. Ma solo come sua moglie potevo, in qualità di assistente, avere accesso al laboratorio. Ecco perché ci sposammo. Sebbene ci siano stati tra noi anche amore e attrazione, non ero religiosa e non ero interessata al matrimonio, ma in quel momento non c'era altra via. Ma fummo felici. Trascorremmo la luna di miele esplorando la costa bretone in bicicletta. La nostra vita era meravigliosa. Fu in quel magazzino che usavamo come laboratorio che Pierre ed io avemmo la grande sorpresa mentre osservavamo la trasformazione della Peck Blenda. Il livello di radiazioni era molto superiore a quello che ci aspettavamo. Poiché il macchinario si comportava in modo diverso dalle nostre aspettative, ma non era rotto, risolvemmo che dovesse esserci un altro minerale radioattivo oltre all'uranio. E infatti c'era, anzi, ce n'erano due. Come scoprimmo in seguito, uno dei due era il radio e l'altro, in omaggio alla mia terra natia, lo chiamai Polonio. Era forte nella mia memoria l'umiliazione che dovetti ingoiare da ragazzina quando a scuola entrò un addetto culturale del paese occupante, la Russia dello Zar, e mi chiese un resoconto della storia alterata e propagandistica che ci obbligavano a studiare. Pua! Risposi correttamente, in russo. Ma me ne vergognai per il resto della mia vita. Giurai a me stessa che quella sarebbe stata l'ultima volta che mi sarei mostrata servile nei confronti del potere, e così fu. Le scoperte di Röntgen sui raggi X e quelle di Becquerel sulle particolari caratteristiche ancora sconosciute dell'uranio furono ciò che mi spinse, anzi mi obbligò, a dedicare la mia tesi di laurea, la prima in fisica da parte di una donna, a quella che poi chiamai radioattività. Mi procurai minerali e altre sostanze da misurare, ma non avevo un metodo da seguire. Inoltre, le emissioni dell'uranio erano debolissime e si prospettava davvero difficile riuscire a misurarle. Per me furono determinanti le apparecchiature costruite da Pierre con i quarzi, anche se per altri scopi. La sua perizia tecnologica e la sua manualità artigianale si integravano alla perfezione con il mio talento intuitivo e astrattivo. Quando decisi di studiare i raggi di Becquerel, ossia i composti di uranio, nessuno se ne stava occupando, nessuno li riteneva di qualche utilità, nonostante l'interesse che avevano inizialmente suscitato. Il collega francese Becquerel, che ricevette il Nobel con me e Pierre, era stato il primo a studiare i composti di uranio, ma anche il primo ad abbandonarli. Io invece ero mossa da un istinto e da una voce interiore ferrea. Nulla mi distoglieva. Ero sicura di dover guardare dentro la Peck Blenda, che infatti conteneva uranio. Avevo però scoperto che la Peck Blenda emetteva radiazioni molto più forti di quelle dell'uranio puro e quindi mi convinsi che lì dentro, oltre all'uranio, ci dovesse essere qualcos'altro che emetteva quelle radiazioni più forti. Fu quello il vero inizio della scoperta del radio. Lo scrissi su una nota all'Accademia delle Scienze che firmai con il solo mio nome, Marie, e i due cognomi Sklodowska e Curie. Incoraggiata da Pierre, il quale, sempre più affascinato dai miei risultati, aveva deciso di affiancarmi, abbandonando le altre sue sperimentazioni. Nel laboratorio magazzino di Parigi, ogni giorno scioglievo, filtravo e purificavo chili di Peck Blenda per ottenere radio in quantità sufficiente da poter definire il suo peso atomico. Il termine radioattività fu coniato da me. Fu l'argomento della mia tesi di dottorato. La presenza misteriosa, ma tangibile, del radio era come una forza spirituale che si era insinuata nella nostra vita e che ci avvolgeva e ci riempiva di stupore e di entusiasmo. Dai primi esperimenti con la Peck Blenda ottenemmo una sostanza 400 volte più radiante dell'uranio. Non era sulla tavola dei componenti chimici di Mendeleev. Lo chiamammo polonio. Poi trovammo un'altra sostanza 900 volte più attiva dell'uranio e poiché questa sostanza emetteva un bagliore verde fosforescente, radiante anche di notte, lo chiamammo radio. Ma per isolare pochi milligrammi di radio e classificarlo serviva una tonnellata di Peck Blenda. L'universo ci venne in aiuto nella persona di un industriale parigino che ci fornì il materiale. Io stavo tutto il giorno a contatto con sostanze e gas velenosi, ciò nonostante stavo onorando lo scopo della mia incarnazione e la madre volle darmi l'energia necessaria a completare il mio piano di vita. Inalai e toccai una tale quantità di veleni che, se non fossi stata aiutata da un piano più grande, il mio corpo avrebbe ceduto molto, molto prima. Finalmente, dopo 3 anni passati a mescolare tonnellate di Peck Blenda, che bolliva in un recipiente di ghisa sospeso sul fuoco di legna all'esterno del laboratorio, alla maniera degli alchimisti, riuscii a isolare 1/10 di grammo di radio puro e a misurare il suo peso atomico. Quello era l'unico modo per inserire la nuova sostanza da me isolata nella tavola di Mendeleev. Divulgammo la notizia e ci fu accordata una grossa somma di denaro per proseguire nell'operazione di estrazione del radio su più ampia scala e con maggiori mezzi. Vivevamo praticamente nel laboratorio e non parlavamo d'altro che dei nostri esperimenti. Era come un sogno. Passavo la giornata con un uomo magnifico che mi permetteva, anzi mi incoraggiava, a fare tutto ciò che mi stava a cuore. Continuai le ricerche e le sperimentazioni anche durante le 2 gravidanze. Perfino quando nacquero le bambine e io faticavo a conciliare il ruolo di madre con quello di scienziata, Pierre mi sostenne e mi aiutò, alternandosi a me nell'educazione e nella cura delle nostre figlie, in modo che io non fossi costretta a rinunciare alla ricerca scientifica. Il nome Curie, che per sempre è legato a me, sebbene sia il nome di mio marito, è stato dato a 2 istituti del radio, a Parigi e molti anni dopo a Varsavia. Tuttavia, quando Pierre fu nominato da solo per il Nobel, fu solamente grazie alla soffiata di un membro della commissione, il quale invece sosteneva il lavoro delle donne e lo avvertì, che fui inclusa anche io. Io, che ero la vera autrice della scoperta. Mio marito intercesse per me, scrivendo alla commissione che non avrebbe accettato un premio alla ricerca sul radio senza condividerlo con sua moglie. L'Università di Parigi offrì la cattedra di fisica a mio marito ed io ricevetti la mia prima nomina ufficiale a sua assistente. La nostra felicità familiare, però, stava per terminare. Improvvisamente, Pierre fu investito da un carro e morì sul colpo. Io chiusi il mio cuore e soffrii in silenzio uno strazio impossibile da descrivere, poiché mio marito era stato per me il più caro dei compagni, come Folmar per te, Hildegard, o come Conlet per te, Brigid. Tuttavia, avevo 2 figlie piccole e le necessità della vita non mi consentirono di portare il lutto a lungo. Ottenni di sostituire mio marito nella cattedra di fisica alla Sorbona. E da quel momento la mia speranza fu di creare un grande istituto di ricerca alla sua memoria. In quell'occasione un giornalista scrisse: «Se le donne possono insegnare a un pubblico misto, come si sarebbe mantenuta la superiorità maschile?» E aggiunse che perfino le donne potevano trasformarsi in esseri umani. Pierre mi mancava talmente tanto, mi mancò ogni giorno del resto della mia vita. Nel frattempo, qualcuno si accorse che le radiazioni emesse da un'ampolla nella quale era presente la sostanza da me isolata uccidevano le cellule in cancrena. Si cominciò a usare il radio come terapia. Ero consapevole della sua pericolosità. Avevo annotato sul mio quaderno di laboratorio che le dita con cui toccavo le provette, piene di sostanza radioattiva, divenivano dure e doloranti. Ma in un baleno si diffuse l'idea che il radio potesse curare e anzi prevenire qualunque cosa, e l'industria se ne impadronì, arrivando a inserirlo perfino nei tessuti e nelle creme, nei sali da bagno, nei dentifrici, nelle caramelle e nel cioccolato. Ma io non intesi mai dare il via alla speculazione e alla immonda industria della malattia in cui si è trasformato il mondo scientifico. Tant'è vero che non brevettai la scoperta. Dopo la mia dipartita, tutto si è trasformato in sfruttamento dell'essere umano come fonte di reddito, garantito dalla sua malattia e assunzione di farmaci. Così pure la radioterapia, che inizialmente funzionava per bloccare le cancrene degli arti amputati in trincea, oggi viene applicata al fenomeno chiamato cancro, senza preoccuparsi di comprenderne le reali cause e trasformando quella che potrebbe essere la naturale trasmutazione alchemica di un organismo in evoluzione in una malattia da curare. Il mondo degli uomini e il denaro guastano e corrompono tutto ciò che viene scoperto e donato col cuore. Mentre proseguivo con la sperimentazione, ci si rese conto che la fisica classica non offriva alcuna spiegazione a una tale energia sprigionata dai tre elementi che definii radioattivi. Bisognava cercare altrove, in altri reami dell'esistente, e forse cercare nei mondi invisibili. L'emissione di radiazione spontanea era un enigma e non poteva essere spiegata come una ordinaria trasformazione chimica. Percepii che stavamo esplorando un campo fino a quel momento sconosciuto, quello dell'infinitamente piccolo, dell'energia pura. La struttura dell'atomo non era ancora stata scoperta a quell'epoca. L'atomo era solo un concetto filosofico risalente a 500 anni prima della nascita di Joshua. Tuttavia, garantiva nell'immaginario collettivo la stabilità della materia. Ora, però, si scopriva che l'atomo poteva immettere energia e questo suggeriva che nell'universo ci fosse qualcosa di più piccolo dell'atomo stesso. L'atomo smetteva di essere una pallina che con miliardi di altre palline formava la materia e diventava un piccolo mondo da esplorare. Come in alto così in basso, come nel grande così nel piccolo, la legge alchemica della specularità frattale della vita venne da me non solo suggerita, ma anche verificata, misurata e battezzata. Scrissi che avrei potuto essere presa per un alchimista e anche se la mia affermazione passò per uno scherzo, in realtà non lo era affatto. L'alchimia è la scienza che tiene presenti i mondi invisibili al di là dei fenomeni meccanici. E io, coi risultati che avevo ottenuto tra la chimica e la fisica, ero indubbiamente un alchimista. Ebbi nei confronti della scienza la stessa reverenza mistica di un alchimista che ottiene con i suoi processi di laboratorio visioni e chiavi di accesso ad altri mondi esterni ed interni. Proprio come un alchimista comprendevo più e meglio me stessa, via via che proseguivo con la mia grande opera di identificazione della radianza emessa dal cuore dell'atomo. Come un alchimista, mentre operavo in laboratorio, risvegliavo facoltà latenti proprie dell'essenza umana superiore, che ritorna divina. Naturalmente, consideravo un abominio che la scienza, la voce della madre fosse messa al servizio dell'industria e del denaro come un mero macchinario atto a riprodurre effetti certi da cause date. Più tardi fu scoperto che davvero l'atomo è uno spazio vuoto con un minuscolo nucleo, quello nel quale si attua la radioattività, attorno al quale orbitano particelle ancora più piccole. Questo campo non chimico né fisico fu battezzato nucleare. Fu questo che mi indusse a lottare per la creazione di un istituto del radio nel quale studiare le forze nucleari di cui ancora non sapevamo nulla. Isolai un milionesimo di grammo di radio puro, un milione di volte più attivo dell'uranio. 12 anni dopo la scoperta del radio come elemento, scrissi il mio trattato sulla radioattività. Avevo 43 anni ed ero vedova, fisica di fama mondiale, riconosciuta e madre sola di due ragazze. Mi incoraggiarono a candidarmi per entrare all'Accademia delle Scienze, ma la stampa, ultraconservatrice, misogina e xenofoba francese, ancora una volta lanciò il suo anatema sull'ingresso di una donna, per di più straniera, in una tale venerabile istituzione. I giornalisti insinuavano che fossi ebrea e che dunque non potessi insegnare ai francesi cattolici. Si invocò il voto patriottico per l'altro candidato, che vinse per un solo voto. I miei valori erano considerati antifrancesi. Ero un'eretica, anche se non veniva usato questo preciso termine per definirmi. Una donna che stava sfidando tutte le leggi sociali e religiose dello Stato e del mondo intero. Una donna che aveva il coraggio di essere intelligente, creativa, indipendente, libera e autonoma in un mondo di uomini. Fece seguito una campagna mediatica scandalistica che gettò discredito su di me e buio sulla mia famiglia di donne. Attraverso la pubblicazione di lettere falsificate si divulgò la notizia di una relazione tra me, la donna straniera, e lo scienziato Langevin, che era stato collega di Pierre e mi era molto affezionato. La mia casa era assediata dai giornalisti che mi accusavano di voler distruggere la famiglia Langevin. Venni minacciata di morte. Progressisti e conservatori strumentalizzarono il pettegolezzo per rinvigorire la loro lotta di sempre e si sfidarono con ferocia. Per fortuna le mie figlie mi rimasero fedeli e anzi questo evento fortificò la nostra unione. Ma io ne uscii a pezzi. La mia immagine era distrutta. Non volevo più lavorare. Non mi importava più di nulla. Tutto ciò che avevo dato e continuavo a dare come scienziata non contava nulla di fronte a un freddo pettegolezzo che riguardava la mia vita privata. L'umanità era cattiva, cattiva e non meritava i miei sforzi. Fu proprio in quel periodo che fui nominata per il secondo Nobel. E anche stavolta fui quasi per perderlo a causa dello scandalo mediatico riguardante la mia vita privata. L'Accademia Nobel, temendo per il suo buon nome, mi chiese espressamente di astenermi dal presenziare. Ma ero determinata, come sempre. Scrissi a Stoccolma che il riconoscimento mi veniva dato come scienziata, quindi non aveva nulla a che fare con la mia vita privata. Scrissi che nulla mi avrebbe impedito di andare a ricevere ciò che meritavo e partii per andare a prendere il mio premio. Nessuno osò negarmelo. Un banchetto a cui parteciparono 300 donne diplomate, rappresentanti del mondo delle lettere, dell'arte, della medicina e della scienza, fu offerto in onore mio e di mia figlia Irène. Al ritorno, però, nel silenzio totale della stampa francese sulla mia premiazione, fui costretta a rifugiarmi in Inghilterra per sfuggire alle calunnie e solo dopo 14 mesi le voci si zittirono e potei tornare nel mio laboratorio di Parigi. Il mio fisico si era molto indebolito. Il premio che avevo ricevuto a Stoccolma mi ispirò alla progettazione di un grande istituto dove studiare le caratteristiche di quel radio per il quale avevo ricevuto il riconoscimento. Ma scoppiò la guerra. E i miei progetti rimasero tali. Tuttavia, proprio la guerra fu ciò che paradossalmente mi aiutò a uscire dalla malinconica solitudine nella quale ero precipitata. Avevo sempre avuto bisogno di uno scopo per vivere, uno scopo alto che andasse oltre la mia esistenza o quella delle mie figlie. Io ero nata per servire. Compresi che il mio aiuto doveva assumere un aspetto diverso. I raggi X potevano aiutare i medici al fronte a individuare schegge e pallottole e a estrarle dagli arti feriti senza amputare. Così feci montare la macchina radiologica di Röntgen su un'auto che mi era stata prestata dalla Croce Rossa. Feci modificare la carrozzeria e collegare il motore a una dinamo che produceva l'elettricità necessaria ad alimentare l'attrezzatura radiologica. Ideai la prima ambulanza radiologica e partii per il fronte, dove, appena arrivata, la reazione fu unanime. Dovevo andarmene. Quello non era posto per una donna. Ancora e ancora la stessa filastrocca di sempre. E naturalmente rimasi. Dopo 2 anni l'auto radiologica era stata riprodotta. Ora ce n'erano 20 e avevo istituito circa 200 avamposti di servizio radiologico per i soldati che combattevano in tutta la Francia. Le macchine radiologiche affiancavano il lavoro dei chirurghi, localizzando esattamente la posizione dei corpi estranei che andavano estratti dagli arti dei soldati feriti. Usavo 2 lastre per poter individuare le 2 dimensioni, come in un sistema di assi cartesiani. Infatti andava localizzato non solo il punto preciso sul corpo steso, ma anche la profondità di penetrazione della pallottola o della scheggia. Ma per assolvere bene il compito di quella parte della mia vita, dovevo superare 2 grossi problemi. Il primo era farmi rilasciare i salvacondotti per potermi muovere liberamente ovunque ci fosse bisogno della mia unità mobile di radiologia. Chiesi di lasciare in bianco la destinazione per evitare la continua, estenuante procedura burocratica. Mi si accusava di non obbedire alle autorità e di guidare mezzi militari, cosa proibitissima a una donna. Ma io ero nata in un paese occupato e avevo imparato presto che le autorità bisogna ignorarle se si vuole andare avanti. Il secondo problema era formare personale di radiologia in grado di lavorare accanto ai chirurgi. I medici erano ottusi e non usavano la logica. Si limitavano a eseguire pedissequamente gli ordini e a riprodurre per imitazione il dogma appreso nei corsi universitari. Non ebbi altra scelta che chiamare mia figlia Irene, che era al sicuro in Bretagna con sua sorella. Irene era brillante e desiderava, malgrado i suoi soli 17 anni, dare il suo contributo al paese. Più tardi formai in radiologia e anatomia 150 donne della Croce Rossa. Creai una scuola di radiologia nell'Istituto del Radio che a causa della guerra non stava funzionando. Salvammo 1 milione di vite. Alla fine della guerra, mia figlia Irene fu premiata con una medaglia per il suo contributo patriottico. Io, la straniera, non ricevetti nulla. Ma il mio premio fu finalmente l'apertura del padiglione Curie nell'Istituto del Radio di Parigi. Mi fu affidata la direzione della sezione chimico-fisica, mentre quella medica del padiglione Pasteur fu assegnata al mio buon amico Claude, che per primo aveva avuto l'intuizione di usare le radiazioni per uccidere le cellule cancerose. Mi trasferii praticamente a vivere nel padiglione e decidemmo, Claude e io, di usare la macchina radiologica a scopo medico, creando collaborazione tra i 2 padiglioni da noi diretti. Ma purtroppo non avevamo che 1 grammo di radio. La guerra aveva prosciugato tutte le risorse economiche di cui necessitavamo per continuare le ricerche. Così, grazie all'aiuto di una meravigliosa donna, partii per l'America, che di radio ne aveva invece ben di più. Visitai i laboratori e gli istituti di ricerca del nuovo continente e andai anche dal presidente. Niente mai poté fermare la mia determinazione. Ottenni un secondo grammo di radio, consegnatomi grazie a una colletta organizzata dalle donne americane. Le femministe mi amavano e mi sostennero. Le avevo ispirate senza bisogno di fare politica. La mia vita era la dimostrazione che la determinazione può portare le donne a livelli impensabili. Ripartii per la Francia e finalmente potemmo riprendere le sperimentazioni. Riuscii a isolare la giusta dose di radio di cui Claude aveva bisogno per i suoi trattamenti. Mia figlia, la mia bellissima Irene, insieme a me in laboratorio ogni giorno. Anche lei aveva sposato uno scienziato e con lui scoprì la radioattività artificiale, che fruttò anche a lei l'ambito premio, il Nobel. Fu lei a scoprire che la radianza si poteva creare anche in laboratorio. Mia figlia mi volle testimone al suo esperimento. Ma anche questa scoperta fu sequestrata e corrotta dalle industrie degli uomini per denaro. Senza volerlo, avevo dato un grosso contributo all'emancipazione femminile. Nell'istituto del radio venivano molte giovani ricercatrici spinte dal fatto che io, la patrona, ero una donna. Avevo stimolato la creazione in Francia di un ministero della scienza, la cui direzione fu affidata a una donna, mia figlia Irene. Avevo viaggiato in tutto il mondo per portare ovunque la mia testimonianza sul misterioso radio. Avevo collaborato con i massimi scienziati dell'epoca ed ero stata definita la donna più famosa del mondo. Avevo creato un corridoio per la futura fisica dei quanti, ma a quel punto il mio corpo, già fortemente provato a causa di tutti quei viaggi e conferenze, si deteriorò ancora più velocemente. Gli occhi bruciavano e le orecchie ronzavano costantemente. Ero arrivata al traguardo. Il mio corpo era stato fedele e forte e mi aveva sostenuta per tutto il tempo necessario. Ed ora mia figlia Irene era pronta a sostituirmi. Così compresi, come te, sorella Sabina, che potevo finalmente lasciarlo andare. Di lì a poco abbandonai il mondo degli uomini e mi lasciai riassorbire nel grembo della dea. Accanto a me, nel momento supremo, ci fu mia figlia Eve, che non a caso portava il nome della prima madre. La causa medica cui si imputò la mia dipartita fu la lunga esposizione ai raggi senza protezione, ma quando riesumarono i miei resti dal cimitero per trasportarli nel luogo dove riposano i grandi francesi, trovarono che in realtà il livello di radioattività dei miei resti era molto debole. Fu una sorpresa per coloro che si aspettavano una grande contaminazione fin dentro la terra che ospitava la mia bara. Ma la realtà è che io me ne andai perché avevo portato a termine il mio compito. La radioattività non era nella materia, era nel nucleo dell'atomo, in un mondo parallelo di cui avevo provato l'esistenza. Questo fu il mio lascito. Nel mio diario avevo lasciato scritto che in laboratorio, di fronte ai fenomeni che osservavo, ero come una bambina di fronte a una fiaba. Mai la scienza avrebbe dovuto essere ridotta a un ingranaggio, a un meccanismo. La scienza possiede un'anima, la stessa che vibrava nel mio essere, l'anima della vita omnipervadente della grande madre. La radioattività da me scoperta, aprendo la mente al ricordo dell'infinitamente piccolo, ribaltò completamente la percezione e l'idea della materia e dell'universo che fino a quel momento aveva impregnato il mondo degli uomini, ed ebbi un dono dalla guerra. Attraverso la visione dei corpi che cadevano e diventavano terra e cibo per vegetali e animali, divenni consapevole della dea nel suo aspetto di rigeneratrice. Seppi che nulla moriva veramente. La sofferenza, però, quella non si poteva negare. Non fui chiamata professore, sebbene lo fossi di fatto e anche di diritto, fui sempre e solo Madame Curie. Solo così, come Madame, il mondo degli uomini poteva tollerare un'intrusa nei suoi giochi di potere. Ma io mi sentivo onorata che mi chiamassero signora, come la signora della vita, che ho servito e servo. Nonostante le apparenze, nel mio intimo non dimenticai mai di essere una donna e una madre. Così io, Marie, figlia di Kuan Yin, con lei che ha ritrovato e classificato l'infinitamente piccolo e trasformato in scienza i mondi invisibili, in questo sacro cerchio ho parlato. Marie tacque, rossa in volto e accaldata per lo sforzo di parlare così tanto di sé. Era sempre stata schiva e poco incline ai complimenti. La sua omonima, Maria, così vicina per genialità innovativa e per essere nata lei pure nell'Europa orientale, qualche decennio dopo, sentì che era venuto il suo momento e decise di alzarsi per condividere la sua storia. Si inchinò alle sorelle tutte e al fuoco sacro. Si riempì la ciotola con l'infuso di erbe preparato da Hildegard e ne beve alcune lunghe sorsate. Poi fece passare la ciotola in cerchio e cominciò a parlare.